Il terzo anello ad alta voce. Il circolo Pickwick di Charles Dickens. Shh, disse Sam. I Wellington sono andati all'ufficio di stato civile. No, disse l'ometto. Sì, per una licenza di matrimonio. Siamo in tempo, esclamò Wardle. Mostrateci la camera, non c'è un minuto da perdere. Prego, caro signore, prego, disse l'ometto. Prudenza, prudenza. Tolse di tasca un borsellino di seta rossa e guardò Sam intensamente, tirando fuori una sterlina. Sam fece una smorfia molto espressiva. Portateci subito là senza annunciarci, disse l'ometto, e sarà vostra. Sam gettò da una parte lo stivale a risvolti e li condusse lungo un corridoio scuro e su per una lunga scala. Si fermò alla fine di un secondo corridoio e allungò una mano. Ecco, bisbigliò l'avvocato mettendo la moneta nella mano della loro guida. Questi fece ancora qualche passo, seguito dai due amici e dal loro consigliere legale. A una porta si fermò. «È questa la stanza?» mormorò l'ometto. Sam assentì con un cenno del capo. Il vecchio Wardle aprì la porta ed entrarono tutti e tre nella stanza proprio mentre Mr. Jingle, che era tornato in quel momento, mostrava la licenza alla zia Zitella. La zitella emise uno strillo acutissimo, si lasciò cadere su una sedia e si coperse la faccia con le mani. Mr. Jingle ripiegò la licenza in fretta e furia e se la mise in tasca. Gli sgraditi visitatori avanzarono nel mezzo della stanza. Voi siete un bel mascalzone, esclamò Wardle soffocato dalla collera. Caro signore, disse l'ometto posando il cappello sul tavolo. Prego, riflettete, prego. Reato di diffamazione, azioni per danni. Calmatevi, caro signore, prego. Come avete osato rapire mia sorella dalla mia stessa casa? Disse il vecchio. Sì, sì, benissimo, disse l'ometto. Questo potete chiederlo. Come avete osato, signore? Voi, chi diavolo siete? Chiese Mr. Jingle con tono così feroce che l'ometto indietreggiò involontariamente di un passo o due. Chi è, canaglia? Intervenne Wardle. È il mio avvocato, Mr. Perker di Gray's Inn. Perker, voglio portare questo lazzarone in tribunale, farlo mettere sotto processo. Voglio rovinarlo. E voi, continuò Mr. Wardle, voltandosi improvvisamente verso la sorella, voi, Rachel, a un'età in cui dovreste avere più buon senso, che cosa avete creduto di fare scappando con un vagabondo, disonorando la nostra famiglia e rovinando voi stessa? Mettetevi il cappello e tornate a casa. Voi là, chiamate subito una carrozza e portate il conto di questa signora, capito? Subito, signore, rispose Sam, che aveva risposto alla violenta scampanellata di Wardle con una tale sveltezza da far gridare al miracolo chiunque non sapesse che il suo occhio era stato applicato al buco della serratura durante tutto il colloquio. Mettetevi il cappello, ripeté Wardle. Non fate nulla del genere, disse Jingle. E voi, signore, lasciate la stanza. Niente da fare qui. La signora è libera di agire come vuole. Più di 21 anni. Più di 21 anni? Proruppe Wardle con disprezzo. Più di 41! Non è vero! Disse la zia Zitella, scordando per l'indignazione che aveva deciso di svenire. È vero! Rispose Wardle. Ne avete 50 sonati! Qui la zitella diede uno strillo acutissimo e perse i sensi. Un bicchiere d'acqua, disse l'umano Mr. Pickwick, chiamando la locandiera. Un bicchiere? Disse Wardle furibondo. Portatene un secchio e rovesciateglielo tutto addosso. Le farà bene e se lo è ampiamente meritato. Ma che brutto! Esclamò la soccorrevole locandiera. Povera cara! E con numerose esclamazioni quali «E su via, cara, bevete un sorso, vi farà bene, non lasciatevi abbattere così, tesoro!» eccetera, eccetera. La locandiera, assistita da una cameriera, si mise a bagnare di aceto la fronte della zia Zitella, a slacciarle il busto e, insomma, a porgerle tutti quei conforti che le donne compassionevoli dedicano sempre alle signore quando queste cercano di farsi venire un accesso di isterismo. Thank you. carrozza è pronta, signore, disse Sam comparendo sulla porta. Andiamo, esclamò Wardle. Io la porterò giù dalle scale. A queste parole l'accesso scoppiò con raddoppiata violenza. La locandiera stava per fare una violentissima protesta contro questo modo di agire e già aveva dato libero sfogo al suo sdegno, chiedendo a Mr. Wardle se si considerasse il signore del creato, quando Mr. Jingle intervenne. «Lustra scarpe?» disse. «Andatemi a chiamare una guardia!» «Fermo! Fermo!» disse il piccolo Mr. Perker. «Riflettete, signore, riflettete!» «Non c'è niente da riflettere!» rispose Jingle. «Lei è padrona di se stessa. Voglio vedere chi oserà portarla via, se lei stessa non lo desidera!» «Oh, non voglio che mi si porti via!» mormorò la zia Zittella. «Non lo desidero!» E ricadde in un nuovo terribile accesso. «Caro signore!» disse l'ometto a bassa voce, prendendo da parte Mr. Waldo e Mr. Pickwick. «Caro signore, siamo in una situazione molto difficile. È un caso penoso, molto. Non ne ho mai visto uno più penoso. Ma veramente, caro signore, veramente non abbiamo il diritto di dirigere le azioni della signora. Vi avevo avvertito prima di venire, caro signore, che ci si doveva preparare a un compromesso.» Ci fu una breve pausa. «Che genere di compromesso suggerite?» chiese Mr. Pickwick. «Ecco, caro signore, il nostro amico è in una posizione delicata, molto delicata. Dovremmo rassegnarci a subire una perdita pecuniaria.» «La subirò, piuttosto che rassegnarmi a questo disonore e lasciare che lei, sciocca com'è, si rovini per tutta la vita», disse Wardle. «Credo che la cosa si possa fare», disse il dinamico ometto. «Mr. Jingle, volete passare con noi nella camera vicina per un attimo?» Mr. Jingle assentì e il quartetto si trasferì in una camera vuota. «E adesso, signore», disse l'ometto chiudendo accuratamente la porta, «non c'è modo di aggiustare questa faccenda. Venite qua un momento, signore, nel vano della finestra, signore, così saremo soli. Là, là, signore, là, prego, sedetevi. Adesso, caro signore, detto fra noi, sappiamo benissimo, caro signore, che voi siete fuggito con la donna per amore del suo denaro. Non aggrottate le ciglia, signore, non aggrottate le ciglia. Detto fra noi, ripeto, sappiamo come stanno le cose. Tutti e due siamo uomini di mondo e sappiamo benissimo noi che i nostri amici qui presenti non lo sono, eh?» La faccia di Mr. Jingle si distese a poco e qualcosa che sembrava un ammicco tremò per un attimo nel suo occhio sinistro. «Benissimo, benissimo!» disse l'ometto osservando l'impressione che aveva prodotto. «Ora, il fatto è che tranne poche centinaia di sterline la signora avrà poco o niente fino alla morte di sua madre. Una vecchia dama veramente straordinaria, caro signore.» «Vecchia?» disse Mr. Jingle, conciso ma efficace. «Beh, si intende», disse l'avvocato, raschiandosi leggermente la gola. «Avete ragione, caro signore, è abbastanza vecchia. Ma discende da una vecchia famiglia, caro signore. Vecchia in tutti i sensi. Il fondatore della famiglia venne nel Kent quando Giulio Cesare invase la Britannia. C'è stato un solo membro della famiglia da allora in poi che non sia arrivato agli 85 anni. E anche lui per il solo motivo che fu fatto decapitare da un Enrico. La vecchia dama non ne ha ancora 73, caro signore.» L'ometto si fermò e fiutò una presa di tabacco. «Ebbene?» lo sollecitò Mr. Jingle. «Ebbene, caro signore, non fiutate tabacco. Tanto meglio, è un'abitudine che costa. Ebbene, caro signore, voi siete un giovane brillante, un uomo di mondo, capace di farvi una strada se... se aveste un po' di denaro. Eh?» «Ebbene?» disse ancora Mr. Jingle. «Non mi capite?» «Non del tutto. Non credete? Cercate di capirmi adesso, caro signore. Non credete che sarebbero meglio 50 sterline e la libertà piuttosto che la signorina Wardle e l'attesa? «50 sterline? Non basta, è meno della metà», disse Mr. Jingle alzandosi. «No, no, caro signore», protestò il piccolo avvocato trattenendolo. «È una bella somma. Un uomo come voi potrebbe triplicarla in 4 e 48. Si può fare un sacco di cose con 50 sterline, caro signore». «Si può fare di più con 150», rispose tranquillamente Mr. Jingle. «Bene, bene, caro signore, non perdiamo tempo in queste miserie», rispose l'ometto. «Diciamo 70?» «Non basta», disse Mr. Jingle. «Non ve ne andate, caro signore, prego, non precipitate le cose», disse l'ometto. 80, andiamo, vi riempirò un assegno immediatamente». «Non basta», disse Mr. Jingle. «Bene, caro signore, bene», disse l'ometto trattenendolo ancora. «Ditemi quanto basterebbe?» «Affare costoso», disse Mr. Jingle. «Un mucchio di spese, viaggio 9 sterline, licenza 3, fanno 12, compenso 100, 112, sacrificio dell'onore e perdita della signora». «Sì, sì, caro signore», disse l'ometto con uno sguardo d'intesa. «Lasciamo perdere le ultime due voci. Eravamo a 112, facciamo 100 e sia finita». «120. Disse Mr. Jingle. «Via, via, vi riempirò un assegno», disse l'ometto, e si sedette al tavolino per scrivere. «Lo farò pagabile per dopodomani», disse l'ometto rivolgendosi con lo sguardo a Mr. Wardle, «e nel frattempo porteremo via la signora». Mr. Wardle fece un lugubre cenno di assenso. 100, disse l'ometto. «E 20, disse Mr. Jingle. «Ma caro signore», protestò l'ometto. «Dategliele», intervenne Mr. Wardle, «e mandatelo via». L'assegno fu riempito dall'ometto e intascato da Mr. Jingle. «E ora lasciate immediatamente questa casa», disse Wardle, alzando su. «Caro signore», lo supplicò l'ometto. «E ricordate disse Mr. Wardle, che nulla potrebbe indurmi a questo compromesso, nemmeno il rispetto per la mia famiglia, se non fossi sicuro che dal momento in cui avrete messo quel denaro nelle vostre tasche, ve ne andrete in malora più in fretta, se possibile, che senza di esso. Caro signore, supplicò ancora l'ometto. State zitto, Perker, rispose Wardle. E voi, lasciate questa stanza. Subito, disse imperterrito Jingle. Salve, Pickwick. Se uno spettatore spassionato avesse potuto vedere il volto di quell'uomo illustre, il cui nome costituisce l'elemento caratteristico del titolo di quest'opera, durante l'ultima parte di questo colloquio, avrebbe quasi dovuto meravigliarsi che la fiamma di sdegno che ardeva nei suoi occhi non avesse liquefatto il vetro degli occhiali, tanto era maestosa la sua collera. Gli si dilatarono le narici e strinse involontariamente i pugni nel sentirsi interpellato dal manigoldo, ma riuscì ancora a dominarsi. Non volle ridurlo in briciole. «Ecco qua!» continuò quell'incallito traditore buttando la licenza ai piedi di Mr. Pickwick. «Sostituite il nome, portate a casa la signora, servirà per tuppi!» Mr. Pickwick era un filosofo, ma i filosofi, per quanto corazzati, non sono che uomini, infine. Il dardo lo raggiunse e penetrò attraverso l'armatura filosofica fino al cuore. Reso pazzo dall'ira, scagliò ciecamente il calamaio davanti a sé e partì a sua volta dietro il calamaio. Ma Mr. Jingle era sparito e si ritrovò fra le braccia di Sam. «Oi!» disse quell'eccentrico salariato. «Il mobilio costa poco al vostro paese, signore. Scrive da sé quest'inchiostro, vedete? C'è la vostra firma sul muro. State calmo, signore. A che serve correre dietro a un uomo che ha sgombrato il campo? E ormai sarà arrivato all'estremo opposto del borough.» La mente di Mr. Pickwick, come quella di ogni grand'uomo, era aperta alla persuasione. Egli era un rapido e potente ragionatore e gli bastò riflettere un istante per convincersi che la rabbia non serviva a nulla. Quest'ultima, prontamente come era venuta, si placò. Ah, egli tirò un profondo respiro e girò lo sguardo benigno sugli amici. Chi narrerà i lamenti che seguirono quando la signorina Wardle si scoprì abbandonata dall'infedele Jingle? Dobbiamo qui riportare nella magistrale descrizione di Mr. Pickwick quella scena straziante? Il suo quaderno macchiato da lacrime di umana compassione giace aperto davanti a noi. Una sola parola e passerà nelle mani del tipografo. Ma no, saremo risoluti. Non strazieremo il cuore del pubblico dipingendo una tale sofferenza. Lentamente e tristemente, i due amici e la donna abbandonata fecero ritorno alla diligenza per Muggleton il giorno dopo. Capitolo dodicesimo, che riferisce un'importantissima iniziativa di Mr. Pickwick, la quale fa epoca nella sua vita non meno che in questa storia. Dopo una generosa colazione, i quattro signori si misero in cammino per Gravesend. arrivarono in quella città all'una circa. Il loro bagaglio l'avevano spedito a Londra da Rochester e furono tanto fortunati da trovare posto sull'imperiale di una diligenza, per cui arrivarono a Londra sani di corpo e di spirito nel pomeriggio dello stesso giorno. L'appartamento di Mr. Pickwick in Goswell Street, sebbene di modeste proporzioni, era non solo molto comodo e ben messo, ma particolarmente adatto a ospitare un uomo del suo genio e del suo spirito di osservazione. La sua padrona di casa, la signora Bardell, vedova e sola erede di un defunto ufficiale di dogana, era una piacente massaia dai modi affaccendati e dall'aria simpatica. Mr. Pickwick camminava nervosamente su e giù per la stanza. Si affacciava alla finestra a intervalli di circa 3 minuti l'uno, tutti i momenti consultava l'orologio e dava molti altri segni di impazienza che non gli erano mai stati propri. Si capiva che qualcosa di molto importante era atteso, ma cosa fosse precisamente, nemmeno alla signora Bardell era dato di scoprire. «Signora Bardell», disse Mr. Pickwick dopo qualche minuto. «Signore», ripeté la signora Bardell, «credete che in due si spenda molto di più che da soli?» Mr. Pickwick», disse la signora Bardell arrossendo fino all'orlo della cuffia, poiché le sembrava di vedere una vaga luce matrimoniale negli occhi del suo inquilino. Mr. Pickwick, che domanda!» «Beh, ma cosa ne pensate?» chiese Mr. Pickwick. «Dipende», disse la signora Bardell avvicinando lo spolverino al gomito di Mr. Pickwick che si trovava puntato sulla tavola. «Dipende molto dalla persona, sapete. Dovrebbe essere una persona precisa e risparmiatrice». «È verissimo», disse Mr. Pickwick. «Ma la persona che ho in mente», e qui diede un'occhiata intensa alla signora Bardell, «credo che abbia queste qualità e per di più una notevole conoscenza del mondo e molto acume, signora Bardell, e questo mi sarebbe di grande aiuto». Mr. Pickwick», disse la signora Bardell col rossore che le saliva di nuovo fin sopra la cuffia. «Ne sono convinto», disse Mr. Pickwick con energia crescente, come faceva sempre quando il suo argomento gli stava a cuore. «Ne sono convintissimo. E per dirvi la verità, signora Bardell, mi sono già deciso». «Che dite?» esclamò la signora Bardell. «Dunque», disse Mr. Pickwick, «che cosa ne pensate?» Mr. Pickwick», disse la signora Bardell tutta agitata e tremante, «siete molto gentile». «Vi risparmierà molto lavoro, no?» disse Mr. Pickwick. «Al lavoro non ho mai pensato», rispose la signora Bardell, «e si capisce adesso ne farei anche di più per farvi piacere. Ma è così gentile da parte vostra, Mr. Pickwick, esservi preoccupato della mia solitudine». «Oh, certo, certo», disse Mr. Pickwick, «non ci avevo pensato. Quando sarò in città voi avrete sempre qualcuno con cui chiacchierare». «Certo, proprio così». «Ah, caro!» disse la signora Bardell. Mr. Pickwick sobbalzò. «Ah, come siete caro, sempre così gentile, buono, scherzoso!» disse la signora Bardell e senza aggiungere altro si alzò da sedere e gettò le braccia al collo di Mr. Pickwick con una cateratta di lacrime e un'orchestra di sospiri. «Santo cielo!» esclamò attonito Mr. Pickwick. «Signora Bardell, mia buona signora, oh povero me, che situazione! Vi prego di considerare, signora Bardell, no! Ma se venisse qualcuno, oh, vengano pure!» esclamò la signora Bardell dissennatamente. «E non vi lascerò mai, anima cara, dolce, buona!» E così dicendo la signora Bardell si strinse a lui più stretta di prima. «Pietà di me!» disse Mr. Pickwick dibattendosi violentemente. «Sento della gente salire le scale. No, no, siate brava, non fate così!» Ma preghiere e rimostranze furono del pari inefficaci, poiché la signora Bardell era svenuta fra le braccia di Mr. Pickwick. E prima che questi avesse il tempo di depositarla su una sedia, il signorino Bardell entrò nella stanza introducendo Mr. Tupman, Mr. Winkle e Mr. Snodgrass. Thank you.